corime beglio, così rengriccato, da Colliucci a Fontana e Oprato. Chi non c'è stato non può sapere, per qua ragione, se sta così bene.